Sotto questo cielo azzurro arcobaleno nero, sopra questa terra d'ogni colore, canta la mia bocca, canta il mio cuore, la meraviglia dell'Africa intera, le sue mille. Cerca di rifiuti, chi ne ha non se ne cura. Muore di sete, di guerra, muore di fame. La cerca di rifiuti, chi ne ha non se ne cura. Nera, nera, nero, nero, un arco arcaico, frecce di veleno. Bastoni, fucili coloniali a pallettoni, bombe Kalashnikov di prima o quarta selezione. Nera, nera, nero, nero, il terrore vuoto negli occhi, la morte nella... Nessuna compassione, nessuna redenzione, orrore quotidiano. Nero, nero, nera, nera, nero, nero, nera, nera, nero, nero, nera, nera, nero, nero, nera, nera. Africa bella da morire, muore. Meraviglia d'Africa, ti vedo ogni colore. Bella la bellezza nera. Tutte le sfumature della luna, è l'arcobaleno la fortuna. Nero, nero, nera, nera, nero, nero, nera, nera, nero, nero, nera, nera, nero, nero, nera, nera. Caro Clemente, in Africa orientale, l'Etiopia, la Somalia, bella Abissina, aspetta, spera, l'ora s'avvicina. Nero, nero, nera, nera. Hanno fregato prima, durante e dopo, un paese in ginocchio col gas e il fuoco. Ti porteremo a Maccallè, Roma, nero, l'impero, il Papa, il Duce, il Re. Nera. Caro Clemente, non è rimasto niente di tanto poco. T'hanno fregato prima, durante e dopo. Nero, nero, nera, nera. Sulle bandiere sventola i Le Selassie, imperatore copto, cristiano re dei re, gran protettore del reggae giamaicano, passa una canna di mano in mano. Africa bella da morire, muore. Meraviglia d'Africa, ti vedo ogni colore. Bandiere sventola, Haile Selassie, imperatore copto, cristiano, re dei re, gran protettore del reggae giamaicano, passa una canna di mano in mano. Leone di Giuda da Saba Salomone, ha un regno inattaccabile in espansione, sudditi devoti, cantori, canzoni. Rastaman, vibration, eia, Rastaman. Nera, nera, nera, nera, nera, nera.